Buon pomeriggio radioascoltatori, eccoci qui di nuovo in una nuova puntata di Bella Vita in compagnia di Rosy e in compagnia anche di un ospite particolare che già giovedì, per chi avesse ascoltato la puntata di giovedì, avevo già preannunciato. Buonasera. Infatti, a tutti. Ecco a voi, c'è Sara, direttamente dalla sua palestra del fitness americano. Presentiamo Sara. Sara è una ragazza... Dimmi tu cosa sei. Sono una ragazza normale come tutti, un po' più sportiva delle altre. Beh, diciamo un po' così. Fin troppo direi. Ma non, niente paura, non vi preoccupate, a poco diremo chi è Sara, descriveremo ciò che lei fa, ciò che lei realizza. Ma per adesso continuiamo ad ascoltare la bella musica che già ascoltavate in anticipo prima che entrassi io in diretta. E ha fatto direttamente Sara questa richiesta, vero Sara? Sì, sì. Vasco Rossi, una bellissima canzone, Sally, e quindi noi l'ascoltiamo e la dedichiamo quindi a Sara. Nel frattempo lei si prepara per quello che deve dire, per fare la sua bella figura. Dai, allora ecco a voi Vasco Rossi, Sally. Se lui cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se lui è una donna che non ha più voglia fare la guerra, se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore, se li cammina per la strada sicura senza pensare a niente, mai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole. Sopra la follia, sopra la follia. Senti che fa il piove, senti che bel rumore. Ma forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Se davvero ci si deve sentire, alla fine è un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero. Il suo turbamento è come se fosse l'ultimo. Se li cammina per la strada leggera, ormai è sera. Accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato credo proprio che abbiamo cominciato al meglio ascoltando Vasco Rossi e la sua Sally, che era proprio una richiesta fatta dalla nostra cara amica ospite Sara, che adesso le faremo tante di quelle domande che manco lei se ne potrà rendere piano conto. Piano piano. Piano bene, allora cominciamo con una prima domanda, la più semplice. Sì. Come hai cominciato tu? Ho iniziato 3 anni e mezzo, 4 anni fa, mm-hmm. esattamente, mi ero trasferita a Palermo. Ho iniziato per gioco, diciamo così, ho conosciuto il mio compagno Andrea Tedeschi, è uno sportivo, un preparatore atletico, campione mondiale, insomma, 30 anni di esperienza alle spalle, c'è un curriculum abbastanza lungo, non posso raccontarvelo. Tu hai voluto copiare un pochettino? Ho voluto copiare, però diciamo che non ho potuto copiare tutto, impossibile, anche per l'età, diciamo così. E niente, ho iniziato a seguirla in palestra, mi allenavo come tutte le ragazze normalmente, 5 minuti di tappeto, non più di queste, perché alla sesta ero già morta, dopo una settimana facevo 20 minuti e tutto questo è durato per 2 mesetti, diciamo così. Piano piano andavo in palestra, saltavo un giorno, il giorno che saltavo mi mancava e lì ho capito che stava succedendo qualcosa. Ti stava nascendo in qualche modo una passione. Sì, è nata proprio una passione. Ho iniziato ad allenarmi con piccoli pesetti, andavo a correre. Ci siamo trasferiti, ricordo, a Trieste in quel periodo. E il freddo, credimi, a Trieste, la neve, con tutta la neve, pioggia, freddo, andavamo a correre. Ti veniva spontanea alla fine muoverti proprio per riscaldarti. Anche. Diciamo che ho preso quella come scusa, però comunque andavo a correre, nonostante le domeniche in famiglia, i dolci, io rinunciavo ai dolci, andavo a correre, andavo in palestra, mi allenavo. Insomma, è iniziato così, ho conosciuto Andrea, colpa sua, bene. Diciamo così. Allora, sappiamo che anche Andrea è qui in studio, quindi alla fine faremo anche qualche domandina anche a lui per vedere se conferma ciò che tu hai detto, sai, perché non si lo sa... Lo picchio. Ah, lo picchi. Beh, come si suol dire, tra moglie e marito non metteremo il dito, quindi io non mi intrometto. Arrangiatevi, come si suol dire. Bene, allora noi continuiamo ad ascoltare un po' di canzoncine. Che dici? Sei d'accordo? Sì, d'accordo. E poi dopo continuiamo ancora con tante domande. Anche perché se ci sono i nostri radioascoltatori che ci ascoltano, possono anche loro fare le loro domande. Sono quindi... qui. Perfetto, allora ascoltiamo gli Evanescence, Lost in Paradise. If I was human, and I've been denying this feeling of hopelessness in me. I'm Che bella questa canzone degli Evanescence, Lost in Paradise. Siamo sempre in diretta su CRM Happy Radio in compagnia di Rose all'interno di Bella Vita e vi ricordo sempre che c'è ospite Sara, la nostra amica Sara, la nostra allenatrice, anche la mia che mi uccide. Mi uccide sempre. Posso? Salutiamo Sandra. Sì, volevo mandare un bacio a Sandra, anch'io ti voglio bene. Sì, spieghiamo ai nostri radioascoltatori, se no ci prendono per pazze. Infatti, Sara, non è che siamo qua a casa nostra, che facciamo quello che vogliamo. Ha mandato Sandra un messaggino dicendo appunto grande Sara, ha fatto i complimenti e le ha detto anche ti voglio bene, quindi lei ha risposto. Ebbene, allora, continuiamo la nostra intervista. Ricordo ai nostri radioascoltatori che se vogliono possono fare anche loro le loro domande. Ed è semplice contattarci perché si possono benissimo scrivere su Facebook chattando con noi in diretta e poi potrebbero anche benissimo mandare un messaggino al 335-5637-251. Nel frattempo già c'è qualcuno che chiama lo 0921 92 32 92. Sara, quindi continuiamo il nostro discorso. Sì. Quindi hai cominciato tu ad allenarti tanto, tanto, tanto insieme al tuo caro amore Andrea, anche compagno di vita. Esatto. Parte maestro. Quindi ho iniziato lì, iniziò a preoccuparsi lui, diciamo, perché... Perché preoccuparsi? Perché la palestra mi era entrata dentro, quindi... Iniziò a curavi capito, più sì, lei sì. Che lui? Forse all'inizio sì, diciamo un po' così. Comunque ha capito che la mia passione era diventata grande. Tant'è vero che ho iniziato a prepararmi, a fare sacrifici. Prepararmi per le gare. Infatti l'anno scorso, 2011, ho fatto 3 gare. La prima è stato un nazionale a Capo Rizzuto. Vinto. Grande Sara. Primo posto, sì. Dopo 3 mesi ho partecipato ad un mondiale in Slovenia, portandomi il 3° posto a casa, quindi ho portato anche lì Cefalù a livello internazionale, diciamo così. Bello. E alla fine, giusto perché ero stanca, però ormai che c'ero, ero in ballo, ho voluto ballare. Infatti, già che c'eri. Sì, ho fatto un mondiale anche a Roma, dove ho preso il 5° posto. Comunque stanca, ma quinto posto anche quello. Vabbè, sono sempre sì. Soddisfazioni. Sì, sì, sì, sì, sì, abbastanza. E conti di fare qualche altra cosa? Sì, diciamo che mi sono data alla bella vita, quindi a tavola e non ho badato più alle diete, al regime alimentare, che per me era come il Padre Nostro. Fondamentale, diciamo, sì. E quindi ho mangiato, ho bevuto, ho fatto di tutto. Hai fatto anche il saluto. Saluto, sì. Però adesso fine mese, inizio febbraio, diciamo così, inizio la preparazione per un'altra garetta, diciamo mondiale. Miro il primo posto questa volta, verso giugno penso. E noi ovviamente faremo tutti quanti il tifo per te. Grazie. E allora ascoltiamo questa canzone che sono sicura piace anche a te e al tuo compagno Alessandro Amoroso. Buon ascolto. Quasi mattina, continua a dormire se vuoi, che stare in silenzio ci fa meno male. Magari torno più tardi, fuori fa freddo ma non tremo per quello. Fuori fa freddo e dentro inverno, e un giorno rinasce mentre siamo impegnati a perderci. Sarebbe un peccato stare a guardare. Oggi mi sembra diverso, il tuo buongiorno amore non è lo stesso. Ieri era estate ed oggi inverno. Fermati un attimo e dimmi che cosa vuoi fare. Vero che vuoi restare, e questo tempo difficile va male, ma sì, abbiamo ancora tutto da inventare. Guarda che non si cancella una vita così, che te lo dico a fare. E questo amore impossibile è la storia di un film che non ha mai un finale. È vero che vuoi restare, è vero. In cucina come macchine ferme a un semaforo. Ti dico un segreto, posso abbandonare, anche se tutto è diverso. Ho così freddo, amore, credimi adesso. Domani estate finirà l'inverno. Calmati un attimo e dimmi che cosa vuoi fare. Vero che vuoi restare. E questo tempo difficile va male, ma sì, abbiamo ancora tutto da inventare. Guarda che non si cancella una vita così, che te lo dico a fare. E questo amore impossibile è la storia di un film che non ha mai un finale. È vero che che vuoi restare. Look at us break our bonds in this kitchen. Look at us rallying all our defenses. Look at us waging war in our at us jumping ship in our dialogues. There is no difference in what we're doing in here. The desert and shall have as big as symptoms out there. So I spend the night time just micro kids with both our hearts blocked. Look at us turn away from all the rough spots. Look at dictatorship on my own. ti porterà dove niente nessuno ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando te. Ti arriverà prima che tu ti addormenti. Se mi sognerai, dal cielo cadrò. E se domanderai, da qui risponderò. E se tristezza e vuoto avrai, da qui cancellerò. Sognami se nevica, sognami su nuvola, sono vento e nostalgia, sono dove vai. Questo era Biagio Antonacci, Sognami, una canzone richiesta qui all'interno di CRM P Radio. Era la nostra cara amica Franca, che tra poco la faremo anche parlare, perché anche lei fa parte di quella famosa palestra che adesso Sara, la nostra amica Sara, ci parlerà. Quindi sì. Allora, abbiamo detto che ti sei aperta quindi questa palestra, l'ho anticipato già io. Com'è nata l'idea di fare anche l'istruttrice? Allora ti spiego. È iniziata per scommessa, diciamo che Andrea mi ha sempre detto: adesso sei pronta, vediamo se sei in grado. Ti ha dato quindi fiducia. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Quindi ho iniziato presso Terzi. Abbiamo inventato questa nuova disciplina chiamata fitness americano. Non esisteva con questo nome e tutto quanto. È un mix, diciamo di così, di esercizi a corpo libero con pesetti e non dico altro. Scopritelo, venitemi a trovare se volete. Stavo dicendo, ho iniziato presso Terzi. Eravamo in 8 all'inizio. Come dicevi tu, c'è Franca qui, adesso gli diamo la parola. Salutiamo così. Franca. Sì, Franca, un benvenuto qui in diretta su CRM P Radio. Ti do il benvenuto, avvicinati pure al microfono, niente paura, tranquilla. Buongiorno. Buongiorno. Sono Francesca Terranova e posso dire di essere stata la prima iscritta. Quindi facciamo buonissima pubblicità, sì, a Sara, sì, perché hai avuto i tuoi risultati, ti è piaciuto? Moltissimo, sto bene e oltretutto sto in compagnia. L'importante. Mi piace, non sapevo parlare, non sapevo nemmeno quello che si doveva fare. All'improvviso, sì, tutto. Sì, sì. Però sì, alla fine è riuscito, giusto? Sì, tutto bene. Sara è molto brava. E ti sei presa questo preparata. Complimento, vedi? Grazie, Franca. Quindi, dicevamo. Sì, dicevamo che ho iniziato. Ho iniziato presso Terzi, eravamo in 8 all'inizio, mm-hmm. ricordo. E piano piano iniziavano le richieste. Già dopo le 2 settimane eravamo arrivati a quota 20. Quindi all'inizio un vero boom. Grazie a Dio continua, devo dire. E quindi da lì la decisione di aprirmi una palestra tutta mia. Perché dove lavoravo prima avevo la possibilità di fare soltanto 2 ore a settimana e non mi bastavano più. Le richieste delle ragazze erano: perché non fai tutti i giorni? Allora inventavo esercizi anche in spiaggia a dicembre. Bello. Sì. Facevo esercizi fuori, insomma di tutto. E allora da lì, da un giorno all'altro, ho preso il magazzino insieme ad Andrea, mm-hmm. e con l'aiuto anche di mamma, che saluto perché è in ascolto. Ciao. Ciao mamma. Quindi da lì ho preso la palestra, ho iniziato a fare corsi tutti i giorni, da lunedì al sabato. Ci sono 4 turni in un giorno, quindi 5 turni in un giorno. C'è anche un turno che ho aperto adesso, diciamo l'altro ieri, over 50. Grande! Sì, quindi anche ginnastica dolce. Diciamo che le richieste aumentano di giorno in giorno, di settimana in settimana. E quindi i nostri palestrati diventano sempre più numerosi. Sì, diciamo così. Bene, confessiamolo che anche io sono tra dillo, quelli. Dillo, forza. Sì, dai, ti faccio anche io la pubblicità. Voglio sapere la tua. A poco la dirò. D'accordo. Ti lascerò nella suspense. D'accordo. Per il momento adesso ascoltiamo un'altra canzone. Anche giusto, siamo qui in radio, quindi dobbiamo anche trasmettere le nostre canzoncine, le canzoni che richiedono anche i nostri radioascoltatori. Quindi adesso ascoltiamo i Cranberries, la loro I Will Always, una canzone bellissima. Sara, ascoltala. D'accordo. Whatever you need to take, leave. spazio e il tempo, ho appena un argomento di conversazione con cui possa sfiorarti. Questa canzone ci ricorda un pochettino la scuola, infatti erano i Subsonica, la funzione, la matematica. Voi amavate la matematica? Odiamo. Dico voi perché c'è un'altra persona che è qui ospite oggi. Stiamo parlando della nostra cara amica Rita. Ciao bella. Ciao, ciao, ciao amore. Ecco, Rita è la pazza del gruppo, lo possiamo dire? La vecchia del gruppo. La vecchia? Perché la vecchia? Ho iniziato a settembre con Sara. Ehi fu, siccome mobile. Quindi a settembre. Sì, sì, e che cosa vuoi dirci a proposito? Che mi trovo benissimo con lei. Rita, non ti riconosco. Un po' non... di timidezza. Cioè. No, ma se siamo qui tra di noi, fai finta che stiamo parlando io, te e Sara, appunto. Ah, e milioni di gente soli che ci ascolta. Sì, perché ricordiamo che i nostri radioascoltatori ci possono anche vedere, anzi vi possono vedere, perché la telecamera adesso è puntata solo su di voi, a me oggi non mi vedono. Ah, sto benissimo? Sì, io ti guardo dalla TV, sei bellissima, oh, guarda, sei grazie, stupenda. Bene, infatti bene. Ricordiamo che ci possono seguire in diretta streaming al www.crm. radio.it e possono anche fare le loro richieste musicali, delle loro canzoni preferite, possono anche scrivere qualche messaggino, chissà, magari ti arriva qualche messaggino per te, Rita? Speriamo. Forza con le domande, dai. Speriamo, speriamo. Bene, allora abbiamo detto poco fa che la nostra cara allenatrice Sara si è aperta questa sua palestra, dove arrivato a un certo punto sono arrivata anche io. No, non ci credo. Mi sono presentata. Come non ci credi? Il nostro odio iniziale. Dall'odio nasce l'amore. Io lo so che tu sei innamorata di me. Sì, sì, sì, sì, sono innamoratissima lo di so. Te. Non sei tu sola, ci sono anche altre donne che sono innamorate di me. Addirittura. E salutiamo le altre componenti del team. Sì, siamo arrivati a quota. Siamo arrivati a quota più o meno più di 50, non diciamo grande, vabbè, più la 50, grande. Io quindi faccio parte di questi 50 e posso dire semplicemente la 49esima sei. La 40, no, forse un po' prima, Dai, ora adesso un mese che vengo giusto qui. Da un mese ho visto i miei risultati. Ciremini, a poco mi vedrete sempre più snella. Forza Rosalia, vai. Per forza. Certo, mi massacra, facciamo la pubblicità negativa adesso, mi massacra però i risultati si vedono, quindi, come si suol dire, chi bella vuole apparire... Un poco deve soffrire. Un poco? Bene, deve soffrire. Tanto deve soffrire, ma noi siamo pronti, sono pronta, voglio soffrire perché devo dimagrire. Brava. Siamo due. Non voglio diventare però scheletro, perché la cicetta quella da toccare sempre ci vuole. Certo, le maniglie dell'amore. La carne è carne. La carne poi è debole automaticamente, quindi se non fai toccare carne al proprio boyfriend, che cosa tocca lui? Basta, e siamo ancora in fascia protetta. Ci sono i bambini. Forza, qualche domandina a Rita. No. Qualche domanda, ma mischia, perché la dobbiamo un pochettino... Imbarazzo, perché mi piace sono il rosso. Timida. vergogno. Ti vergogno. Allora, hai detto che hai cominciato a settembre. Sì. Hai cominciato subito con l'allenamento oppure poi hai associato anche una dieta? Perché un piano alimentare. Il piano alimentare l'ho associato dopo i 2 mesi. Dopo 2 mesi. Sì. E con questo piano alimentare hai trovato anche i tuoi risultati oppure è stata una perdita di tempo? No, no, i miei risultati l'ho trovato. Sono dimagrito bensì in 7 kg. Mizzica, 7 kg. In quanto, quindi, alla fine, in 2 mesi, 3 mesi? In 3 mesi. Grande, quindi già è una buona... Brava Sara, complimenti. Grazie, brava Sara. Voi comunque. Bene. Brava per la volontà comunque, non è semplice, sono comunque buona sacrifici, volontà, sì. Sì, sì, per chi comunque è abituato a mangiare, non dico tantissimo, comunque a mangiare male, in modo non naturale, diciamo così, sono sacrifici, specialmente all'inizio, quindi brave voi per la volontà che ci mettete. L'importante è la volontà alla fine, senza volontà non si fa niente. Allora, senza la volontà noi non possiamo fare niente, ma anche qui in diretta su CRMP Radio all'interno di Bella Vita, insieme a Merosi, insieme alla nostra amica Rita e Sara, l'allenatrice famosa ormai, noi continuiamo ad ascoltare musica. Infatti è arrivato il momento di ascoltare una bellissima canzone Tranquilla di Cristina Aguilera. Dobbiamo accontentare un po' tutti, giusto. Quindi buon ascolto. Ciao ciao. Your mind.

che si basa tutto sulla preparazione fisica. Tu però cominciamo dall'inizio. Tu, questa passione quando è nata? Mamma mia, allora, io ho cominciato ad andare in palestra che avevo 15 anni, nel lontano 1981. Quindi già dobbiamo stabilire anche l'età che hai tu, no? Potevi anche risparmiarti. Lo so. Io ho 45 anni ora. Grande, però sì. Li porti benissimo. Ti ringrazio. Ti vedono anche in diretta, quindi possono sicuramente confermare. Grazie. E niente, ti dicevo, io ho cominciato che avevo 15 anni, piano piano appassionato comunque di forza, perché a me appassionava molto la forza. Mi sono iscritto in palestra, a quegli anni comunque le palestre erano molto diverse, molto spartane, e ho cominciato a fare il mio programma d'allenamento. Che però il mio fisico rispondeva benissimo. Infatti, dopo 3 anni, dall'81 all'84, a 16 anni e mezzo, 17 anni, ho partecipato alla mia prima gara, campionato provinciale triestino, perché io sono triestino, nativo a Trieste. E poi da lì, piano piano, ogni anno ho fatto sempre di più. 86 ho vinto il campionato regionale, nell'87 ho vinto il Nord Italia. Poi ho vinto... Cominciamo ad espanderci, sì, quindi. Sì, sì. Poi ho vinto il campionato italiano nell'88, una bellissima gara ad Abano Terme che ancora porto nel mio cuore. Subito dopo ho vinto anche il campionato europeo e sono entrato in un mondo internazionale pazzesco. E poi da lì piano piano mi sono buttato nelle preparazioni sempre più impegnative per arrivare a un titolo mondiale, che però non arrivava, perché poi ho fatto nel 89 il Mister Universo Juniores e sono arrivato secondo. Poi testardo ho rifatto nel 90 il campionato del mondo e ho fatto un quarto posto. Poi nel 91 di nuovo e ho fatto un sesto posto. E piano piano fino al 2006, che finalmente ho coronato il mio sogno e mi sono tolto tanti sassolini dalle scarpe. Campione del mondo pesi massimi 2006. Grande, sì. Una bellissima esperienza, sì, quindi. Una carriera che poi all'ultimo mi ha portato i frutti migliori. Bene, bene. E poi c'è stato anche l'incontro con la tua cara con Sara, sì, ci siamo incontrati una bella estate. Ma che cosa si prova a stare insieme a una persona che comunque adesso ha le tue stesse passioni, più o meno, possiamo dirlo, no? Certo, vabbè, è tutto. Riuscire a condividere lo sport, la vita, il lavoro, penso sia il traguardo di tutti. Che bello però così. E noi allora ovviamente dobbiamo elogiare questo amore, lo elogiamo nel migliore dei modi, ascoltando una canzone che di amore parla, infatti stiamo parlando dei Take That e Love Love. Perfetto. Your mother or your father, do you understand? I tell you understand. questa era Love Love dei Take That, bellissima canzone che abbiamo appunto dedicato ai nostri amici che sono qui ospiti oggi. Grazie. Spero vi sia piaciuta questa canzoncina. Love Love per voi. Grazie. Allora, continuando questa, chiamiamola ormai intervista, mi sento importante io oggi perché è la prima volta, siete i miei primi ospiti, quindi bello. Sì, avete avuto voi questo onore, io ho avuto questo onore di intervistare delle persone che ovviamente a loro modo aiutano il prossimo, quindi facendoli stare bene con il proprio corpo, con se stessi, quindi questa è la prima cosa. Quindi proprio perché ognuno di noi vuole stare bene col proprio corpo, Andrea, tu puoi dare qualche consiglio ai nostri radioascoltatori, che poi li prendo anche io per me, attenzione, quindi, su come fare, su cosa fare, come nutrirsi? Ma sicuramente, guarda, è semplice, si dice sempre i famosi 1000 passi al giorno. Ecco, questa è una regola fondamentale, cioè lasciando star le diete e tutto quello che ci viene dietro, fare un po' di movimento. Cioè, non penso che le persone non hanno voglia di farlo, è un po' la pigrizia. Sì, infatti. Essere pigri è una cosa molto brutta che porta nel tempo ad accumulare molto peso. Molto peso e molta pigrizia. Perciò la prima regola fondamentale è riuscire a muoversi un po' di più. Quindi a vincere questa pigrizia tipica di noi esseri umani. Perfetto, riuscire a fare un po' di movimento, ma anche semplice, uscire a fare una camminata, lasciare la macchina un po' più lontano, andare a piedi, fare la spesa a piedi, fare le commissioni a piedi, già questo è un grosso passo in avanti. E invece per quanto riguarda l'alimentazione? Ma l'alimentazione è, secondo me, il perno principale, che però è molto semplice, perché chiunque, anche il più sprovveduto, sa benissimo che quando gli mettiamo un piatto davanti, condito, fritto, eccetera, eccetera, sappiamo distinguere le cose, ecco, che fanno bene dalle cose che fanno male. Sì, perfetto. Solo che giustamente uno si nasconde sempre sotto il dire, vabbè, tanto io non so cosa contiene questo cibo, non so quello che mi fa, e si mangia. Ecco, già secondo me, riuscendo a fare questo, capendo un poco le cose che fanno male, di cercare di mangiarle meno, e le cose che fanno bene, mangiarle di più. Comunque un'alimentazione naturale è la via più, la più diretta alla salute. Quindi, in sintesi, che cosa dovremmo mangiare? Le cose primarie. Allora, basi generali per un'alimentazione sana sono verdure a volontà, pasta a pranzo non deve mancare per una persona attiva, stiamo parlando. Attenzione, stiamo parlando sempre di persone che non hanno problemi, che stanno bene. Dunque, verdure, pasta, magari un po' di carne, un po' di pesce la sera. Cioè, sono queste le basi fondamentali. Poi ci sono gli ingredienti giusti per riuscire a fare un'alimentazione giusta. Che però qua andiamo già su un discorso un po' più complicato, che bisogna spiegare, ma sicuramente avremo anche modo, perché state tranquilli che oltre a oggi voi sarete ospiti in altre occasioni. Ma perché ben volentieri, questo è un argomento che interessa a tutti quanti, sicuramente. Sicuramente, oggi come oggi, a tutti interessa stare bene, a tutti interessa essere in forma. Infatti, però scusami, e se per esempio una persona non ama tanto la verdura? Perfetto, cosa dici? Anche la frutta, parlando, sì, ogni riferimento è puramente casuale. Ci puoi mettere sempre un altro tipo di fibre, che sono i cereali, che comunque mantengono l'intestino molto vivo. Ma cereali quelli che si mettono nel latte? Anche questi sono buoni. Sara, ti ho fregato, adesso farò colazione con latte e cereali. Ti ho fregato. Certo, poi ci sono 1000 varianti, però i cereali funzionano. Dai, ho preso un pochettino più coraggio. Te lo concedo con lui. Ah, grazie, solo perché c'è lui davanti. Sarà molto severa, con il suo allievo, ma è giusto che sia così. Sì, no, è vero. Se non fosse così, sicuramente, parlo per me personalmente, non avrei già dato questi primi risultati. Benissimo, perché dillo che sei poco fiera di me. Sì, che sono fiera, non poco, sono fiera. Per dai. Come sono partita, sì, che sì, tipo sì, il piatone. Sì, infatti sei stata abbastanza brava. Dai, sta facendo un magnifico lavoro, sono contento. sì, ma siamo tutti quanti contenti, altrimenti ce ne saremmo già andate e sicuramente io non l'avrei invitata qui se non fossi contenta di lei, che sia chiaro. Dai, allora ascoltiamo una bellissima canzone adesso, che ormai anche ascoltandola penso anche alla palestra, ai momenti di relax. Madonna. Dopo 50... No, l'amoroso. Dopo 50... No, non è l'amoroso. Dopo quei 50 minuti di allenamento, che cosa c'è? Quel relax tipico da post allenamento. Ovviamente. Allora ascoltiamoci questa bellissima canzone. Mi ritrovo qui su questo palcoscenico di nuovo io. Mi ritrovi qui perché il tuo appuntamento adesso è uguale al mio. Hai visto il giorno della mia partenza, nel mio ritorno c'è la tua poesia. Stare lontani è stata un'esperienza, comunque sia. Non ho mai smesso. Why wait for someone else to do what you can do? get stupid, get stupid, get stupid, don't stop, get stupid, get stupid, get stupid, don't stop, get stupid, get stupid, get stupid, don't stop, get stupid, get stupid, get stupid, don't stop, get stupid, to the right, get stupid, to the right, get stupid, to the right. Ascoltando questa canzone mi sembra di stare al momento in palestra, proprio perché la nostra cara amica Sara adora Madonna e ci fa ascoltare sempre Madonna. Io per ora mi sento che sto pedalando sull'ellittica. Forza, 10. Quale 10? Qua 50 minuti. Però bello, bello, bello, perché ormai ho spezzato il fiato, vero Sara? Brava. Quindi ho accumulato resistenza. Brava. Mi manca il tapirulano. A poco avrò anche resistenza lì sopra. Ce la farai. Purtroppo siamo quasi giunti al termine, infatti sono le 17 e un minuto, quindi io devo chiudere. Però non vi preoccupate, CRMini in ascolto. Sai, io ho coniato questo termine, CRMini. Mi piace. Quindi sono tutti i radioascoltatori di CRM. State tranquilli, perché il prossimo sabato loro ritorneranno.